Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. I cuochi vanno molto di moda ultimamente ed è anche un bene che si possa costruire una cultura alta intorno a un fatto come il cibo. Ebbene, uno dei momenti topici all'interno dei reality show che ormai imperversano sull'arte della cucina è il momento della spesa, della scelta degli ingredienti. È facile immaginare che si tratta di un momento cruciale nella vita quotidiana di un ristorante, dove non a caso una delle abilità richieste allo chef, oltre che saper cucinare, è quella di saper gestire oculatamente il magazzino, riducendo al minimo gli sprechi. Ora immaginate che incubo debba essere fare la spesa quotidiana per una struttura come Italy, che in Italia cucina ogni giorno per 8.000 persone e che è totalmente imperniata da un lato sulla, diciamo, garantire la qualità del cibo e dall'altra proprio sulla riduzione degli sprechi. Ebbene, qui è necessario un elemento di organizzazione molto forte, a cui ormai abbiamo anche imparato a dare un nome un bel po' di puntate fa: Workforce Automation. Federico Pedrocchi ha parlato di tutto questo con Francesco Farinetti, che è amministratore delegato di Italy. Ebbene, sentiamo com'è andata. Diamo subito i numeri. Le vostre risorse quante sono? Allora, noi abbiamo 22 punti vendita in Italia, in Giappone e in America, New York. Siamo 2200 dipendenti, di cui 1200 in Italia. Quindi tanti. In che modo, facendo il lavoro che voi fate in questi edifici, dove quando si entra si è circondati da una quantità di proposte che hanno a vedere con il cibo, con la gastronomia italiana, ma anche con gli oggetti per cucinarlo, e poi ci sono 4-5 ristoranti diversi, ci faccia capire in che modo questi strumenti di dialogo costante, messa in rete di tutti, funzionano per il vostro, per la vostra attività quotidiana? Sì, noi siamo un'azienda giovane, il nostro primo Italy l'abbiamo aperto a Torino nel 2007, un'età media di 29 anni, di nostri ragazzi che lavorano dentro gli Italy in Italia, sono 1200, e abbiamo avuto alcune esigenze in uno sviluppo così veloce, perché si immagina, nel 2007 davamo 0 posti di lavoro, oggi ne diamo 1200, quest'anno daremo altri 2000 posti di lavoro con le nuove aperture che portiamo avanti. Le esigenze erano la prima, quella fondamentale dell'uomo, quella di comunicare, comunicare in maniera più semplice e più veloce, e quindi abbiamo lavorato con Vodafone per avere un'infrastruttura di rete unica. Qual è l'informazione che scambiate nella vostra attività? C'è un problema, mi pare di capire, mi dica se sbaglio, di approvvigionamento veramente vasto di merci che arriva, no, nei, esatto, vostri luoghi. Lì perché vi serve? Che cos'è che viene a coordinarsi meglio rispetto a sistemi che, non voglio tornare indietro a quando si usavano i piccioni viaggiatori, però certo, banalmente la mail e la rete, no? Certo, io mi ricordo che mio padre Oscar faceva gli ordini col fax. Io oggi ho un'applicazione che riesco a fare gli ordini attraverso la mia applicazione in tempo reale. I miei manager, qua mi aiuta naturalmente l'età media che ricordo 29 anni, riescono sui tablet o smartphone che abbiamo con la stessa applicazione di vedere in tempo reale sia i dati di approvvigionamento, quindi i dati di stock di tutti i nostri magazzini centralizzati piuttosto che i punti vendita, ma anche i dati del controllo di gestione operativo e quindi gli incassi dal giorno precedente oppure anche quelli istantanei. Se vuole le dico quanto stiamo facendo a New York. In questo momento praticamente. Esatto, in tempo reale. Me lo dica. Dovrei collegarmi, però adesso sul telefono che sto parlando sarebbe brutto. Va bene. Però notate che ci sia una grossa differenza, come dire, nell'averlo in mano mentre quasi 2000 persone girano nei vostri spazi. È diverso proprio il fatto che l'abbiate lì tra le mani costantemente e non invece su delle postazioni computer in certi uffici. Cioè, notate questa differenza? Sì, perché la velocità è fondamentale per capire. Perché è fondamentale, infatti, per il cibo? Esatto, per il cibo è fondamentale perché noi diamo da mangiare solo in Italia 8.000 persone al giorno. A New York, nel punto vendita, diamo da mangiare 3.500 persone. 3.500 persone a New York, le 8.000 in Italia. Se noi sbagliamo un piatto, che noi proponiamo in un menù, dobbiamo saperlo la sera stessa che abbiamo messo nel menù, per quello dire che quel piatto, che se noi non sappiamo se funziona, magari lo teniamo per una settimana e ce ne accorgiamo la settimana dopo che quel piatto non corrispondeva alle esigenze o alle idee, che la storia che noi ci eravamo proposti durante la realizzazione. Quindi è fondamentale avere la possibilità per i nostri manager, poi di settore in settore, di andare a controllare se la loro idea di proposta corrisponde poi alle aspettative del cliente. Ecco, questo mi pare un punto che mi piacerebbe magari che allargassimo un attimo, nel senso che questa precisione estrema che vi dà la rapidità di accesso e conoscenza del dato è qualcosa che fa una differenza in termini proprio di bilancio, nel senso che non avendola avreste delle quote di cassa e quindi tutta l'azienda ne risentirebbe molto di più. Ah, di questo ne siamo certi. Il problema di andare a fare un controllo retroattivo e datato ti porta a scoprire degli sprechi di cui magari tu non te ne sei accorto perché aspettavi il consuntivo alla fine del mese dove tutti i fogli venivano portati di trasferimenti, come succedeva nel 2007 al controllo di gestione che imputava e inseriva a computer e poi da lì con un foglio Excel mandava a me che veniva poi analizzato. Era passato un mese e ti accorgevi che per un mese avevi formato, avevi prodotto, magari ho fatto quel formato di zucchine, quello formato di zucchine non piaceva. E tu hai comprato le zucchine e c'era tutta una catena di, che immagini con i punti vendita, molto importante, e su questi numeri bisogna fare molta attenzione agli sprechi. Dovete eliminare assolutamente lo spreco. Bisogna eliminarlo per due motivi. Uno economico e l'altro etico. Buttare via il cibo è la cosa più brutta che possa accadere. E qui noi dobbiamo dirlo che questo per voi è un must, no? È un obiettivo aziendale che tenete rigido come quello di fare buoni acquisti e di vendere bene. Assolutamente, crediamo fortemente nel mantra mangiare meno, mangiare meglio. Grazie a Francesco Farinetti e a Federico Pedrocchi. L'appuntamento con Smart City per domani alla stessa ora. A voi tutti una buona serata.